Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Chi sta parlando? Non tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. São só palavras. E o que eu sinto não mudará. Goleiros. Tudo que quer. Jefferson do Botafogo. Júlio César do Toronto. Vitor do Atlético Mineiro. Zagueiros. Dante, Bayern de Munique. Davi Luiz, Chelsea. Henrique, Napoli. Thiago Silva, Paris Saint-Germain. Laterais, Daniel Alves, Barcelona. Maicon, Roma. Marcelo, Real Madrid. Maxwell, Paris Saint-Germain. Meio campo, Fernandinho, Manchester City. Hernanes, Inter de Milão. Luiz Gustavo, Wolfsburg. Oscar, Chelsea. Paulinho, Tottenham. Ramires, Chelsea. William, Chelsea. Atacantes, Bernard, Shakhtar Donetsk. Fred, Fluminense. Hulk, Zenit. Jô, Atlético Mineiro. E Neymar, Barcelona. Oh, a me sta già venendo una voglia matta di mondiale. Neymar, Barcelona. Danci. Che meraviglia. Danci. Chi sta parlando? Danci farite, eh? Invece tanto, Danci. Danci. Danci, Bayern Munich. Hernanes. Hernanes. Enrique Napoli. Hernanes Inter di Milan. David Luiz, Chelsea. Ma Kaká, Ronaldinho. No. Ronaldinho. O perché? No, Felipe Luiz. Bene, mi sembra, no? Bene. Grande Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao. Ciao. Franco Petrelli, autore di questo programma, Claudia Schiattone in redazione, Roberto Scattritti in regia. Questa è la squadra. Pierluigi Pardo pronto a volare in Brasile, eh? Pierluigi. Mi licenzia. No, ma no, non glielo permetto. No, io per la verità stavo sentendo questa musica bellissima. E leggevo anche delle dichiarazioni dei giocatori del Clermont-Ferrand, altra storia, Serie B francese, che ha preso la Elena Costa come allenatore per la prossima stagione. E leggevo di un giocatore che a domanda: qual è stata la prima reazione della squadra? Eravamo sorpresi, l'abbiamo cercata subito su Google, ma non per vedere se fosse bella, era solo uno scherzo. In realtà ha detto: l'abbiamo cercata subito su Google per vedere com'era. Certo, sia normale, eh? Vabbè, apriamo i mondiali. Segnalo che è arrivato il signor Freud, che ci ha detto delle cose, insomma, a proposito della sessualità, l'attrazione per gli altri, insomma. Sì, poi hanno anche chiesto: ma moglie fidanzate gelose? No, ma no, mia moglie no, ma credo neanche quelle degli altri. Abbiamo già una fisioterapista donna nel club, dunque. la signorina Carneiro, poi del Chelsea, certo. Vabbè, apriamo i mondiali. 800 24 00 24. Io, Pierluigi Pardo, aspettiamo anche un ospite. Soprattutto aspettiamo molti ascoltatori, perché stiamo per compilare il listone di Prandelli. Quello di Scolari l'abbiamo appena sentito. Bella, bella, mi viene voglia proprio di essere, sì, di andare già là. Sì, sì. poi tu vai, io sto qua come al solito e vabbè. Lo so, però guarda che non sarà una passeggiata, questo è il discorso classico che si fa. Come dice il mio amico e collega Paolo Assogna, sareste felicissimi di partire, ma non sarete così, così tristi quando tornerete. Comunque, insomma, delle complessità. Detto questo, insomma, noi facciamo già il lavoro più bello del mondo, poi lamentarsi. Poi è meglio andare a fare i mondiali in Brasile che in Russia, ma la cosa più bella del mondo, ragazzi, la cosa bella del mondo. Ma poi era pure andare a Donetsk piuttosto che a Poznan. Sì, c'è il pallone, poi alla fine va sempre bene. Va bene tutto. Allora, 800 24 00 24, ovviamente come ogni giorno, per il migliore in campo, la maglietta di tutti i convocati. Ma poi oggi è chiaro che insomma c'è da fare la lista di Prandelli. C'è Luca Calamai della Gazzetta dello Sport che ha già scritto un tweet e io voglio questo confronto diretto tra Pierluigi Pardo nell'angolo rosso e Luca Calamai nell'angolo blu, subito dopo il traffico. Tutti convocati. La finale di Coppa Italia di cui abbiamo parlato prima ha offerto probabilmente una chance importante a Lorenzo Insigne. Ci sarà in questi 30 il giocatore del Napoli? L'ho detto questa mattina, Lorenzo ci sarà e poi lotterà con gli altri, per modo di dire, gli altri 5-6 a essere nei famosi 5 attaccanti. Guarda i numeri, la lista sarà composta da 3 portieri, 8 in linea di massima, 3 portieri, 7 difensori, 8 centrocampisti, 5 attaccanti. 5 attaccanti. Ecco, da questo punto di vista me la regala una primizia. Già quello di Lorenzo Insigne è già un bel anticipo, perché è l'unico giocatore di 30 che sa che di essere nei 30. Anche Balotelli lo sa da qualche tempo, si era detto, e Buffon che è l'unico a essere certo. Quanti nomi ballano? No, diciamo che i 30 sono i 30 che si giocheranno il posto, quindi non è che ballano. Diciamo che io posso avere 18-19 nomi, quelli che hanno già fatto il check-in, ecco, se vogliamo usare questi termini. Poi ci sono altri 3 o 4 giocatori che valuteremo giorno dopo giorno, comportamento dopo comportamento, non soltanto motivazione ma anche dei risultati, diciamo, sui test. Diciamo uno per reparto. Uno per reparto. Allora, io e Piantanini abbiamo fatto la nazionale, Buffon, Sirigu, Sicuri, poi ballottaggio, Scuffè, Perin, in difesa Barzagli, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Abate, Paletta, Sicuri, ballottaggio, Maggio, Criscito, centrocampo Pirlo, De Rossi, Florenzi, Candreva, Marchisio, Montolivo, Tiago Motta, Romulo, Verratti e Parolo che presumibilmente staranno a casa. Per l'attacco Balotelli, Cerci, Immobile, più destro che è salito molto nelle quotazioni del CT, e poi Cassano o Rossi. Luca Calamai, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Luca. Ciao. Allora, Cassano o Rossi? Per Luca Calamai non ci sono dubbi. No, io voglio fare una rapidissima premessa. Sì. Allora, sgombrerei il campo dal problema fisico di Rossi, nel senso che questa scelta secondo me non è una scelta legata a questioni fisiche, perché Rossi è tornato in campionato, è tornato in una partita importante contro un avversario che si giocava la permanenza in Serie A, ha fatto 30 minuti, ha fatto un gol e mezzo, ha un mese davanti, quindi se non ci sono problemi Rossi arriverebbe in Brasile all'80-85% della condizione. Questo per dire che il problema è comunque una scelta tecnica, non è una scelta legata a questioni fisiche, proprio perché per la struttura del giocatore, lui, vi garantisco, l'ho visto quest'estate, l'ho accompagnato quest'estate, lui in 10-15 giorni trova la condizione ottimale e lui è già a buon punto. Quindi il problema è se Rossi è affidabile poi da un punto di vista di struttura, no? Questo è l'altro aspetto. E quindi qui c'è un margine di rischio in una nazionale, e un rischio si deve assumere naturalmente, è una scelta che deve fare naturalmente Prandelli, in un reparto offensivo dove, se guardi bene, non c'è nessuno, né tra quelli sicuri né tra quelli che in qualche modo devono ancora conquistarsi il posto, che dà garanzie e nelle garanzie ci metto capacità tecniche, solidità psicologica, solidità sì. fisica, esperienza, perché quando parli per esempio di Immobile o di Dest parli di giocatori che non hanno nessun tipo di esperienza, quindi c'è una variabile di rischio su tutti. Fatto questa analisi ti dico, e questa è una valutazione del tutto personale, per me Rossi è il più forte attaccante di tutti questi qua, e quindi è un margine di rischio che assumerei senza quindi morale tu dici fisicamente recuperato, il margine di rischio esiste, anche perché è un giocatore che è stato fuori per lunghissimo tempo della stagione. A proposito, Mario Gomez ai mondiali non andrà, ma questo mi sembra una cosa abbastanza normale, vorrei vedere. E allora tu dici, se la scelta, perché la scelta sarà tra Rossi e Cassano, tu dici Giuseppe Rossi per queste ragioni. Pierluigi, eccoci. Ma c'è una sola cosa che non mi è chiarissima delle risposte del CT sul pressing che gli è stato fatto. Cerci, però forse voi avete certezze, cioè Cerci attaccante, quindi sono quattro Cerci. Come? Sono quattro più Cerci o cinque più Cerci? No, sono cinque compreso Cerci, perché sarebbero quindi Balotelli, Cerci, Immobile, più destro, Cassano, Rossi. Non lo so questo, potrebbero essere anche 5 più Cerci. Infatti, Cerci esattamente come Florenzi, diciamo che lo puoi. No, è un attaccante esterno, è un giocatore abbastanza duttile, vedere che per me Cerci va al mondiale sicuro, perché sicuramente ha delle caratteristiche abbastanza uniche, per il tipo anche di assetto tattico che può garantire, no? Con Cerci puoi giocare serenamente 4-3-3. Sì, però Prandelli lo considera un attaccante, cioè non lo mette tra gli attaccanti, perché allora così lo considera. Se lo considera un attaccante, secondo me abbiamo un attaccante di meno, nel senso che sono 4 più Cerci rischiamo di essere messi male, e 4 più Cerci secondo me a quel punto limita la possibilità di Pepito. Perché io sono d'accordo con quello che dice Luca, assolutamente, Pepito pure secondo me è il miglior attaccante italiano come caratteristiche, però è ovvio che un giocatore purtroppo fragile dal punto di vista fisico, che è appena tornato da un infortunio molto lungo, l'ennesimo della sua carriera, porta con sé un margine di rischio ovvio, che è diverso rispetto a quello di altri giocatori. E quindi a quel punto se tu devi avere poi 5 attaccanti, o meglio 4 più Cerci, dove uno è Balotelli che sappiamo ha delle incognite di natura caratteriale, l'altro è Rossi che ha delle incognite di natura fisica, poi sei messo male secondo me. L'altro è Immobile che ha delle incognite di natura dal punto di vista dell'esperienza, partite che questo tipo non ha mai giocate. Però io ti dico la verità, Immobile sta troppo bene secondo me per essere lasciato a casa, cioè io credo che anche Paolo Rossi nel 78 non aveva esperienza, però insomma il momento conta molto secondo me, l'emotività conta molto, il momento emotivo, le stelle, tutte queste cose, una competizione così stretta, ravvicinata, difficile, complessa, anche molto fisica, ed è per questo che io insomma io mi fido ovviamente di Luca Calamai, ma su Rossi qualche dubbio me lo porto, perché è stato fuori per molto tempo in Brasile, abbiamo detto tutti, no, per le bene, condizioni climatiche hai bisogno di atleti al 100%. Vada bene, però cioè il problema è che io la penso un po' l'esatto contrario di te, cioè nel senso che in Brasile conta la qualità più che la fisicità, perché in Brasile correrai poco e quindi avrai la necessità, giocando tra l'Amazzonia, e avrai bisogno del colpo. E quindi Cassano lo lasciamo a casa, Luca? No, io la penso esattamente come parlo sul numero dei giocatori, cioè allora io credo che te devi andare in Brasile con dei giocatori che sono abituati a un certo tipo di top calcio. Allora, tanto per cominciare, con queste condizioni, secondo me Immobile e Destro sono troppi, perché mettici tutto quello che vuoi, ma Immobile non ha mai fatto una partita nemmeno di Champions, cioè è un salto nel buio, no? Destro ha avuto grossi problemi fisici, non dimenticatelo, è stato fuori quasi un anno. Poi torna, anche lui esperienza a livello internazionale zero. Qui andiamo a misurarci con Inghilterra e Uruguay, cioè non c'è il tempo di fare i giochini di esperienza. Allora, io porterei come minimo tre giocatori di grande esperienza. Quindi tu dici Balotelli, Cerci, Immobile, Cassano e Rossi? Io porterei sicuramente Balotelli con tutti i rischi del caso, Rossi con i rischi del caso, Cassano con i rischi del caso, perché sono tre giocatori che tra l'altro, soprattutto Rossi e Cassano, per il loro modo di giocare calcio, li posso usare anche nell'ultima mezz'ora. Sì, certo, certo, è fondamentale. Dopodiché questo. Vado a, io porterei per esempio un attaccante in più, ne porterei 6, quindi porterei sicuramente Cerci. E poi dopo al limite guardo quale dei due giovani mi dà la maggiore garanzia da un punto di vista di impatto, perché i ragazzi quando si mettono li puoi portare anche tutti e due, se fai 5 più 1 puoi portare anche Immobile. Però detto che saranno 5 e che Cerci è un attaccante, certamente allora farlo, io ne porto uno e porto quello che mi dà più garanzie, che non gli tremano le gambe quando poi va a giocarmi magari una partita dentro o fuori, perché ogni partita dell'Italia, dalla prima con l'Inghilterra all'ultima con l'Uruguay, rischia di essere dentro e fuori. Sì. Quindi è giusto il paragone con Rossi, però ragazzi, di Rossi ce n'è uno, come di Guardiola ce n'è uno, cioè sono personaggi difficili da abbinare poi nella storia, no? Sì. E allora vai ecco perché io poi mi porto gente che non ha paura di nulla, perché Cassano e Rossi sono due giocatori che non hanno paura di niente. Sì. Hanno entrambi dei margini di rischio, ma perché Palotelli non è un rischio? Vabbè, ma il mondiale è normale, ma il mondiale è un rischio, è un meraviglioso rischio per definizione. Luca, Pierluigi, allora facciamo così, siamo d'accordo su questi 5? Balotelli, Cerci, Immobile, Cassano, Rossi? Guarda, io e Luca mi sentiamo d'accordo, io farei 5 più 1 e porterei Immobile destro, Balotelli, Cassano, Rossi e Cerci. Farei 5 più 1. Anche perché poi comunque può trovare delle opzioni. Non lo so, secondo me su questo Prandelli ancora ci sta pensando. Cioè, secondo me è troppo, secondo me il vero punto è Rossi. Il vero punto sono le condizioni di Rossi, perché da lì poi a cascata dipende tutto il resto. Certamente Insigne con la doppietta dell'altro giorno ha messo un bel input, un po' complicato secondo me le scelte di Prandelli. Sì, mi sembra in margine, visto così era tutta la stagione. Sì, 8 gol, 2 in campionato, sono pochissimi, per carità. Però 2 gol nella finale di Coppa Italia, una partita di quel tipo, con quell'impatto... chiamano per delle caratteristiche molto aggiungi un'altra opzione, Luca. Ecco, quello che ho scritto nel mio, quelle due righe, ho scritto l'invito è di non avere fretta, cioè io sul Rossi non avrei fretta, me lo porto a Coverciano, sì. Ci lavoro, ci guardo, cioè al limite me lo tengo come l'ultimo dubbio, ma mai e poi mai ci rinuncerei prima di cominciare. Sì, cioè nel percorso d'avvicinamento, poi chiaramente decide Prandelli, per carità, però prima me lo porto, ti faccio in 30 secondi in ritiro a Moena quest'estate. Montella disse a tutti i giornalisti: non pensate a Rossi può essere l'acquisto della Fiorentina a gennaio. Credo abbia fatto 20 gol in 6 mesi prima di arrivare a gennaio, e lui appena lo ha visto lavorare ha detto: ma come si fa a non portare Rossi? Allora a non partire con Rossi. Ecco perché il consiglio mi sono permesso di dare a Prandelli di non avere fretta nel rinunciare a Rossi. Certo, cioè, ma non credo che ce l'avrà, anche se qualche dubbio l'ha speso su Giuseppe Rossi, ma anche legittimamente. Luca, ti ringrazio. Grazie un mille. Abbraccio a tutti. Ciao Luca Calamai. Pierluigi, dopo la borsa parliamo con gli ascoltatori, 800 24 00 24. Ovviamente vedo un sacco di sms e ognuno ha la sua idea, compreso Giovinco, Girardino e Verratti, che fuori è una vergogna, e tutte queste cose qui. A dopo. Credo che sia la cosa giusta da fare, credeci, poi lo devi anche dimostrare, ed è questo che sto cercando di fare con le mie prestazioni, e poi vediamo poi alla fine del campionato. Tutti convocati. C'è Kakà, il pallone per lui, Kakà da lì può calciare, Kakà, rete, torna col Kakà, è un gol bellissimo. L'hai chiamato tu Maurizio, hai detto da lì può calciare, ed effettivamente hai visto lo spazio giusto, ci stava quella conclusione a giro sul secondo palo, e Kakà l'ha messa lì con grande classe. Vengo anch'io, no, tu no. E vengo anch'io, no, tu no. Perché? Perché no? Mascherano rischia il pasticcio, Robinho in agguato, lo attacca Piquet, difende il pallone Robinho, arriva Kakà a sostegno, Kakà in aria, ancora dentro, Robinho, Rete, Milan in vantaggio. Devo andare tutti quanti, ora che è primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccia a parlare d'amore. Vale per Ronaldinho! Secondi dal termine. Che? Ilicic cerca Gomez alle spalle di Ogbonna, la palla per lui, il controllo di Gomez, è tornato Mario Gomez, 1-1 a 12 dalla fine. Tutti in un mondo migliore, vengo anch'io. Queste, ai mondiali non ci vanno, non ci va Kakà, non ci va Robinho, non ci va Ronaldinho, non ci va Mario Gomez. Non ci vanno neanche i miei tre cronache, cioè mi rifatto poi, vabbè. Una volta che, vabbè, comunque a parte le battute autoreferenziali, sì, giravano oggi sul web, giravano delle drammatiche battute, sempre su un discorso di Kakà, insomma, un mese e mezzo, cioè è diventato trentopico a un certo punto questa cosa, il Brasile un mese e mezzo senza Kakà, cioè era una cosa che, proprio di livelli bassissimi, capito, da B-movies degli anni, mi dispiace, Vabbè, ma sono cose scritte, cioè si sapeva, non credo che fosse. Alcuni colleghi brasiliani settimana scorsa da Londra per la Champions pensavano ci potesse essere una possibilità per Robinho. Io l'ho guardato con un'aria molto perplessa. Robinho ha dei rapporti eccezionali con Neymar, pare, però insomma, evidentemente non è bastato per la convocazione. Su Gomez credo che fosse una logica conseguenza di un anno onestamente troppo complicato per poter portare al mondiale. Sì, no, mi diceva giustamente Franco Piatanini, ricordava che Scolari pensava Robinho come uomo spogliatoio, però è una teoria, diciamo, ardita. C'è qualcuno che scrive peggior Brasile degli ultimi 30 anni. C'è il napoletano Enrique, e questo abbastanza sorprende, cioè grande passo per Enrique, giocatore del Napoli, pescato in Serie B, nella Serie B brasiliana, che si conquista in Italia. C'è Maicon fuori i due dell'Atletico Madrid, Felipe Luis e Miranda, e questo mi sorprende un pelo di più, se vogliamo. Questo mi sorprende un pelo di più. Sono d'accordo. Due che hanno fatto una stagione, stanno facendo una stagione straordinaria. Tra l'altro, notizie importanti dalla Spagna, tra poco ne parliamo. Real Madrid praticamente eliminato, sei fuori, direbbe Briatore, per il Real Madrid, mentre si giocheranno. No, dico il Barcellona, la vera notizia è che il Barcellona vince il campionato, ragazzi, questa cosa più accreditata, lo può vincere certamente, se vince in casa con l'Atletico Madrid, se vince le sue due partite, diciamo che Atletico Madrid e Barcellona sono ormai padroni del proprio destino, e il finale del campionato spagnolo è stato incredibile, perché c'è stato questo meccanismo assurdo legato a quest'ultima tra Barça e Atletico Madrid, per cui in realtà il Real Madrid, quando, nel non vincere queste due partite, il vero regalo non l'ha fatto all'Atletico, ma l'ha fatto al Barcellona. Certo, perché ha riportato il Barcellona. Se avesse vinto ieri sera era meno due, e quindi sarebbe rimasto molto probabilmente fino all'ultima giornata con la possibilità di vincere il titolo. Il Barcellona, qualcuno dice, pur di non farlo vincere al Real, avrebbe dato via libera all'Atletico Madrid. A questo punto invece no. A questo punto no, perché il Barça potrebbe arrivare a meno 3 all'ultima giornata dall'Atletico Madrid, secondo in classifica, bello, piazzato, e se avrà la forza, ovviamente tutto a dimostrare, di battere l'Atletico Madrid, comunque in casa diventa campione. Pensa all'Atletico Madrid, che si gioca praticamente due finali secche in un pugno di giorni, una per il campionato e l'altra per la Champions League, è pazzesco. Luca da Ravenna, Giuseppe da Varese, 800240024, se poi volete scannarvi sui fatti di Roma, tornare su quelle robe di chiama, agli ascoltatori piacciono un sacco, piacciono un casino tutte queste cose cupe, no? Se volete, siamo qui, 800240024, c'è il prefetto di Roma che ha deciso di anticipare la Roma-Juventus, è stato deciso un orario strano, notizia di ora 17.45 per Roma-Juventus, verrà come i treni, ormai Carmine Russo, come i treni, bravo, ormai il rapido delle arriva 18, in arrivo 17.45, forse 46.47, ma poi vediamo, comunque queste sono le notizie di cronaca, se vuole intervenire, ma ovviamente cosa non si fa per andare in diretta durante che tutti i convocati in weekend, cosa non si sentano, visto che domenica a quell'ora sarebbe mamma mia. Luca, buongiorno. Ragazzacci, buongiorno a tutti. Magic Moments sempre con voi, sì. Sempre. anche quando sono in ufficio vi ascolto, anche se i miei colleghi d'ufficio starnazzano un po' perché si sentono un po' disturbati, ma tra l'altro d'altro canto sono commercialisti, quindi sì. Noi ci teniamo molto a disturbare, vogliamo disturbare. Lo so, ma infatti anch'io altrettanto mi associo. Due o tre considerazioni sparse, faccio un po' come gli impressionisti che mettevano così nella tela un po' di macchie, un po' i macchiaioli. Punto uno, parlavate prima del campionato spagnolo, ci credo molto poco che l'Atletico Madrid perda Barcellona una partita decisiva con questo piccolo blaugrana. Punto secondo, i mondiali non usciranno dal Sud America, secondo me la Coppa del Mondo. Dubito fortemente che esca dal Sud America e credo, mi aspetto. Sì, ma anche l'Uruguay ha il suo perché. Io vedo anche più la Colombia dell'Uruguay. La Colombia e Belgio, secondo me, possono essere sono due tra le squadre più interessanti dell'Europa. Due compagini sicuramente molto competitive, ma mi aspetto anche in Sud America degli arbitraggi abbastanza particolari, perché in Sud America poi ci sono anche ambienti, insomma, è abbastanza condizionante. Sì. Adesso poi vedremo, perché il tema arbitraggio, poi ho fatto l'arbitro di calcio, per cui sono anche interessato anche per quello, guardo sempre anche un pochino i miei colleghi che entrano in campo. E punto terzo, insomma, si parlava che ieri io sono romagnolo, chiaramente tifoso del Cesena, ieri ha chiamato un mio tifoso avversario del Bologna. Io spero chiaramente che il Bologna faccia un po' da gufo, che vada in Serie B. Dubito che si salvi. Sì. Si lamentava perché la Roma ha perso col Catania e altrettanto il Sassuolo ha passeggiato a Firenze, anche se poi ha rischiato alla fine perché Pegula ha fatto un bambino con i baffi a due minuti alla fine non indifferente. Beh, vedo che anche negli altri campionati, cioè Paris Saint-Germain ha perso col Rennes. Sì, tra l'altro, Luca, Paris Saint-Germain, anche questa è un'altra storia interessante, poi ne parliamo. Paris Saint-Germain che vince il campionato e viene fischiato dalla sua gente, dal suo stadio, da quelli che vanno a vederlo, fine primo tempo, con Ren in casa, era sotto 2-1, ma col campionato già in tasca, già matematicamente vinto, e sono partiti i fischi. Questo è abbastanza curioso. Pardo, cosa ne dici dell'impressionista da Ravenna? Beh, che adesso da quando regaliamo le magliette sceglie il migliore in campo, mi sembra che il livello di coraggio creatività dei nostri ascoltatori sia cresciuto. Sono abbastanza d'accordo quasi su tutto. Io penso che in Barcellona abbia molte possibilità, perché secondo me siamo di fronte a una di quelle situazioni in cui sei in crisi tecnica, ma in questo momento tutta la pressione sarà sull'Atletico Madrid e il Barça oggi si sente come un miracolato. Biscotto, dico, no? Biscotto fra chi, però? C'è una tra il Barcellona e Madrid. Ma no, biscotto. Perché ha perso, perché il Real ha pareggiato ieri. No, c'è un ascoltatore qui, lo posso anche dire, in via Marco Dogiono a Milano, geolocalizzo, che è passato e ha detto biscotto. Ma biscotto tra chi? Fra Barça e Atletico, perché pensava che il Real Madrid fosse ancora avanti. Invece la notizia di ieri sera è che con questo pareggio il Real Madrid avesse perso. Quindi se nella 37esima giornata non cambierà niente, cosa probabile, appunto il Barça andrà a giocarsi la partita con l'Atletico Madrid, consapevoli di poter vincere il campionato. Quindi... Ma no, secondo me il biscotto era relativo a tante partite del campionato italiano. Hai capito male. Pier, ti ringrazio, ti saluto, ci sentiamo domani. Lui parlava di Barça Atletico. Di Barça Atletico, ma non penso. Ma guarda che qua abbiamo ascoltatori, tra l'altro decenni di ascoltatori ciclisti che camminano per... No, veramente, cioè che non ci sia immagine, video per poter documentare, ma fidatevi, era un signore pelato con la barba per 5 anni. Volendo può chiamare anche dalla bicicletta, 800 24 0024. Ci sentiamo domani. Ciao Pierluigi. Tutti convocati. Sono andato sul tuo sito e ho scoperto che sei un rosicone interista. L'ho visto con la maglietta dell'Inter, uguale a quello che fa la telecronaca lì, come si chiama, Atalanto lì, uguale, rosicato uguale. Sì. Mi hanno visto sulla maglietta dell'Inter, peccato che era Dani, che non mi somiglia per niente, credetemi. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Dica. Senta, io voglio dire una cosa, a prescindere, una premessa, io Cassano non lo porterei, non fosse altro per i motivi vecchi e stravecchi delle Cassanate. Sì. Ma Rossi, poverino, in metà tempo che ha giocato rispetto a Cassano quest'anno, ha fatto più gol di Cassano. E poi vedo una similitudine tra il mondiale del 78 in Argentina, dove c'era un certo Paolo Rossi, che torna nell'82 in Spagna dopo che è stato fermo 2 anni, con un certo Giuseppe Rossi che è stato fermo per fatti, diciamo, diversi, per molto, infortuni molto fisici, diversi, certo. Però potrebbe andare in Argentina a giocare, tra 4 anni noi veniamo in Europa, in Russia, a giocare un mondiale, e potremmo giocarlo, se noi lo facciamo veramente, con dei giovani come Ciro Immobile, Verratti, che non l'ha neanche chiamato, malissimo. No, l'ha chiamato, no, in realtà nella lista dei 30, nella lista dei 30, quindi ci sarà, poi dovrà decidere, però, secondo me sta a casa. Ma diciamo, poverino Verardi, a un certo momento, se noi non li facciamo giocare questi giovani, voglia dire, non, io farei una squadra tutta di giovani, tutta, buona parte di giovani, li preparerei per l'Europeo, per il Mondiale, sperando che questa similitudine Argentina e Spagna si difenda con Brasile e Russia. Beh, Giuseppe, noi siamo, insomma, ogni volta che c'è un mondiale, un europeo, ovviamente andiamo a cercare le suggestioni nella nostra memoria, no? E il ricordo di Paolo Rossi e queste cose che, insomma, che ci appassionano, perché si fruga appunto in cerca di qualcuno di simile, potrebbe essere Immobile. Ma Rossi ha fatto molti più gol, 3 gol, 5 gol, e lo so, di Cassano, però sono giocatori un po' diversi, eh. Cassano è un uomo più da assist, Rossi è più finalizzatore, certamente. Io me li porterei tutti e due, i mondiali, perché entrambi possono essere estremamente utili. Sono d'accordo con Pardo quando dice, ma perché dobbiamo tarparci un po' le ali considerando cerci un attaccante, può essere considerato un centrocampista, andiamo con un arsenale offensivo più importante. Poi, detto questo, insomma, Berardi è per il futuro, perché non è che può andare lì a dire va bene, mondiale, gioca a porte aperte, gioca l'under 21. No, adesso abbiamo una squadra che è costruita, si tratta di capire qual è la quali sono le soluzioni migliori, e poi si costruirà per gli europei, per i mondiali, c'è tempo, per i mondiali di Russia ovviamente. Allora, mi sembra molto caldo l'argomento Spagna, Filippo Maria Ricci. Abbiamo fatto un sacco di conti. Buon pomeriggio, e abbiamo deciso che il grande favorito è il tanto bistrattato Barcellona. No, per me resta ancora favorito l'Atletico. Sì? Tu dici? Insomma, l'Atletico teoricamente con 2 pareggi è a casa. Sì. E quindi quest'anno ha giocato 5 volte col Barcellona. 3 pareggi e 2 vittorie. È chiaro che qui stiamo parlando di una partita decisiva, l'ultima, però li hanno già fatti fuori. Sì. In Champions League. No, certo che l'Atletico Madrid va bene, la squadra del destino, però praticamente va incontro, lo dicevo prima, a 2 finali secche per 2 obiettivi enormi. 18 e 24. Va incontro a 2 finali secche per 2 obiettivi enormi. Sì. Insomma, ci vuole anche, c'è anche dei bei cojones per arrivare a vincere quelle 2 partite, no? Diciamo che se finora non avevano nulla da perdere. Esatto, bravo. Adesso sì. Adesso hanno parecchio da perdere, ed è questo anche uno dei motivi per cui dico, il Barça in casa, col suo carisma, con la sua abitudine alle finali, con il suo talento, eccetera. Insomma, il suo Messi. Sì, certamente, no, insomma, sì. Cioè, sempre 41 gol comunque in questa stagione orrenda, no? Sì. No, ma questo è certo. Beh, però dall'altra parte invece c'è il Real Madrid, che ieri sera si è chiamato fuori. Male, perché sono 2 pareggi consecutivi, 2 partite che si dovranno vincere, cioè il Valencia non avrà nulla da dire. Il Valladolid è una squadra più complicata, come ho scritto oggi, cioè, lì ha perso il Barcellona e hanno vinto solo in 3 quest'anno, però è comunque la squadra penultima nella Liga, quindi in casa anche dignitosa, si giocava parecchio, però insomma. E poi insomma, Carlo per me ha un po' sbagliato nella interpretazione della partita, molto italiana, ma siamo nella Liga. Cioè quando lui nel secondo tempo, prima toglie Isco e mette Yarramendi, poi toglie Benzema e mette Marcelo, l'allenatore avversario dice quei cambi dimostrano che c'ha paura e a noi questo ci ha aiutato, oppure che sta pensando ad altro, ma d'altra parte lo faceva anche nel Milan, eh? Sì, però qua ti stai giocando la Liga, bastava portare a casa questo 1-0, restavi vivo altre due partite, no? Perché, e soprattutto sono le critiche, perché sai, qui è un attimo a dare a noi italiani degli italiani. È legittimo anche. Esatto, un po' abbastanza legittimo, essendo noi italiani. Però... No, ma comunque guarda, io credo che ha ragione un ascoltatore che scrive, si chiama Ulisse, che il Real Madrid in questo momento pensa solo alla decima, credo. Beh, che quello sia il pensiero primario di Ancelotti. Però la Liga era vinta, con queste due vittorie era vinta, Sì, lo so, metti però... 4 punti in più. No, è chiaro, forse può essere non lo so, un rischio calcolato, mettiamola così. Sì, lo so che vuoi dire. Però poi alla fine devi andare a Lisbona e devi vincere. Questo è evidente. E poi mille infortuni, infortunietti, acciacchi. Ieri Ronaldo è uscito al nono. Poi dopo Ancelotti dice no, un affaticamento muscolare, nulla di grave. Insomma, per uscire al nono in quella maniera. Ma proprio per questo ti dico che secondo me sono concentrati a quello, quindi al primo dolorino. È per questo che l'approccio, al di là della scelta degli uomini, credo che l'approccio sia stato molto conservativo a questa partita. Credo che l'approccio è chiaro, che vuol dire, se tu qua porti la decima, resti nella storia, appunto. Una Liga. Appunto. L'ha vinta anche Schuster. L'ha vinta perfino Bernd Schuster, Per cui è chiaro, io non ti cambio la vita. Discorso. Io lo so che. Però con un piccolo sforzo in più, soprattutto sono gli effetti collaterali, che secondo me non sono tanto controllati o controllabili, perché l'effetto collaterale Carlo, i cambi. No, ma guarda, io sono convinto che siamo al momento del rischio calcolato, conoscendo un po' Angelo, siamo al momento del rischio calcolato, e sinceramente posso dire, non mi sento nemmeno di dargli torto, non so come la pensano i nostri ascoltatori. 800240024. Filippo, ti saluto, ti ringrazio, devo andare al GR, ciao, alla prossima. Ciao. GR. Credo che sia la cosa giusta da fare, poi lo devi anche dimostrare, ed è questo che sto cercando di fare con le mie prestazioni, e poi vediamo poi alla fine del campionato. Seedorf resta? E questo lo decide il consiglio di amministrazione, lo decidiamo tutti insieme, ci siamo detti alla fine di questo campionato. Quindi non c'è niente di sicuro? No, io non penso né una cosa né un'altra in questo momento, perché è giusto che i miei pensieri, come ho detto sempre, ci possa confrontare sempre col presidente, con Andrea, col direttore, con Vittorio Marotta. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Ragazzacci, buongiorno a tutti. Ti ha lasciato forse un po' perplesso questo? Sì, sinceramente sì, non solo a me, sennò che io credo che a tanti compagni, perché ci aspettavamo magari un altro sostegno oggi, guarda che oggi si è vinto il campionato, non è che oggi era una partita in più. Ci avremmo aspettato magari un pochino più di sostegno alla fine per gioire insieme a loro anche. La Juve l'ha dichiarato incedibile la settimana scorsa, sono venuto lì a parlare, quindi la Juve non cambia idea, Paul è contento, quindi va bene così. Lui è rimasto un po' vago nelle ultime dichiarazioni, dicendo vedremo cosa succederà a fine stagione. Ma lui ha sempre detto che puntava assolutamente a cercare di vincere la Coppa UEFA in casa proprio. Per lui è stata una grande delusione di non aver potuto fare questa. Si è concentrato al massimo su questo e adesso si concentrerà sui mondiali e Reazioni alla notte parigina, molto strane in realtà. Abbiamo sentito Cavani dire: ma come, abbiamo vinto lo scudetto e questi ci accolgono e ci festeggiano in questo modo. Non esattamente una scena di gioia selvaggia, eh? Parco dei Principi che per metà fischiava dopo questa sconfitta interna con il Rennes 2-1, ma lo scudetto era stato incassato prima della partita, ricordo, perché il Monaco aveva pareggiato 1-1 col Gengamp. Beh, insomma, fatto sta che non è che a Parigi vinca lo scudetto. Beh, nelle ultime stagioni sì, sono nuovi ricchi, eccetera, eccetera, però non è che la loro storia sia piena di trionfi. E adesso fischi. D'altra parte è bastato il ritorno di Ibrahimovic, che ieri ha giocato nel secondo tempo, è entrato all'undicesimo secondo tempo. È bastato il taumaturgico rientro di Zlatan Ibrahimovic comunque per festeggiare lo scudetto. Ragazzi, non vi preoccupate, arrivo io, preparate lo champagne. È andata così, pur senza grande entusiasmo. Abbiamo poi sentito Mino Raiola su Pogba, dovrebbe rimanere a Torino. Abbiamo sentito le parole di Raiola, che valgono per quel che valgono. Francesco dalla Spezia, 800 24 00 24. Devo ancora capire, soprattutto Franco Piantarino, deve ancora capire chi è il migliore in campo di oggi. Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie mille. Grazie a lei. Sarò velocissimo. Io seguo i mondiali da quando ero bambino, nel 70. Sì. Da quell'anno lì che poi ho iniziato a tifare per il Cagliari, il mio grande eroe, Gigi Riva, eccetera, eccetera. Sì. Quindi primo ricordo mondiale 70. 70, la bandiera ahimè lasciata nel cassetto alla finale, perché purtroppo è andata come è andata quella. Mm-hmm. Io spero che quest'anno si possa fare come abbiamo fatto in Argentina nel 78, riuscire ad arrivare in semifinale sarebbe per noi secondo me un grandissimo risultato. Sono d'accordo. Però il mio grande sogno, che è la mia grande diciamo squadra del cuore a prescindere dall'Italia, che è l'Uruguay. È il mio grande sogno, che forse è ripetibile, che sarebbe una cosa fantastica se riuscisse l'Uruguay a battere il Brasile in finale, come accade. Sì, ce lo ricordiamo. Ha visto quello spot uscito, vabbè, ormai tempo fa, al tempo dei sorteggi dei mondiali, quello spot? No, vedo pochissimo la televisione. No, guardi, se ha voglia e tempo, prova a cercarlo su internet, YouTube, queste cose qui, lo trova facile, che è uno sponsor di quelle scarpette. Delle scarpe a calcio, dell'abbigliamento, della Puma, non ci sta lì a menarsela. No, facciamo prima. No, se lo vado a cercare, perché è molto divertente. C'è il fantasma un fantasma che si aggira per Rio con il mantello celeste e il numero. Aiuto. 50, no, meraviglioso, davvero divertente. Va bene. Ci diamo un'occhiata, anche se ho l'impressione che per l'Uruguay il treno sia passato al giro prima. Cioè, non è detto. Non vedo grandissimi rinnovamenti in questa squadra, ripeto. Poi anche a me è molto simpatico Uruguay, sebbene io abbia ancora il biceleste Argentina. Prima ha chiamato l'ascoltatore, ma ho l'impressione che la Coppa del Mondo non uscirà dal continente sudamericano. Vabbè, vediamo dove finisce. Allora, Gianluca da Venezia, buongiorno. No, ma mi interessa anche sapere, insomma, il vostro primo mondiale, quello del cuore. Qual è stato? Beh, io da Venezia, il mio primo mondiale è stato quello dell'82. Quindi i primi ricordi sono quelli dell'82? Avevo 8 anni e tra l'altro la finale si è giocata l'11 luglio, sì? Che è il mio compleanno, e quindi ricordo. Quindi so che abitavo in una casa in cui c'era il soggiorno con televisore separato, sì, dalla cucina, quindi i miei genitori erano tutti che mangiavano in cucina e io facevo la spolla dal soggiorno alla cucina, in cui guardavo la partita, e tornavo in cucina a festeggiare il compleanno, quindi correvo una parte e l'altra. Ma come, i suoi genitori non guardavano la finale dei mondiali? Non ci credo. Avevano, mi ricordo che avevano la torta, dovevano festeggiare per me, e poi si sarebbero spostati, io mi ricordo che saltavano una parte all'altra e in un momento di gioia sono andato a vedere il pezzo di partita e Cabrini aveva sbagliato il rigore e sono tornato triste a festeggiare il compleanno, insomma. Sì, e poi quindi... poi è andato in un altro modo. Dopo sì. E al momento della, quando è finita la torta, ci sono arrivati i gol. Certo. E poi ricordo che invece le partite con il Brasile e l'Argentina furono di pomeriggio. Sì, mi ricordo perché andavo da un amichetto che il padre aveva un'officina, no? E quindi lui doveva lavorare e noi avevamo il compito di seguire la partita anche per il genitore che era in officina. Sì, e avevamo gli scrivi degli gol. La prima volta che sento, per i mondiali normalmente l'Italia si ferma, tutti guardano quelle partite, allora c'era quelli dell'officina che c'erano da fare e quindi voi facevate i portavoce. Mamma e papà erano in cucina una sconfitta pronunciata quasi, sembrava. Sì, quale? Quello con il Brasile. Beh, insomma, dopo la vittoria sull'Argentina, qualche idea ce la potevamo anche avere. Contro la vittoria sull'Argentina di Maradona è stata quella che ha svoltato quel mondiale. No, ma è curioso questo ricordo per cui, allora, i suoi genitori in cucina hanno preso con la torta, quelli dell'officina stavano lavorando, insomma, sti mondiali li guardava nessuno. Va bene, Gianluca, voleva dire altro? No, io chiamavo per una cosa, no? Semplicissima, e chiedevo anche un vostro aiuto, una vostra considerazione in quanto juventino. Ho un po' l'amaro in bocca, no? E perché ho un po' l'amaro in bocca? Perché mi sto domandando se continuare, pur riconoscendo le grandi qualità di Conte, con questo allenatore. Perché secondo me la squadra della Juventus non è inferiore come organico, come qualità, all'Atletico. Però l'Atletico sta giocando e avendo risultati diversi. Soprattutto mi ha colpito la personalità e la serenità, quasi, diciamo, come hanno giocato col Chelsea, mentre la Juventus con l'angoscia e la frustrazione contro il Benfica. Quindi mi domando che la domanda è legittima. L'allenatore dell'Atletico non mi sembra il Van Gaal della situazione, però è riuscito a portare la squadra a quei livelli, insomma. Ma certamente, ma questa è una storia irripetibile, quella dell'Atletico. Poi vediamo come il finale, l'ultima pagina di questa storia potrebbe essere tutto, molto oppure niente, anche se una stagione sportiva così sarebbe stupido licenziarla soltanto con l'albo d'oro, perché una stagione così, anche dovesse perdere tutto quanto, sarebbe è stata comunque meravigliosa, perché dobbiamo imparare a guardarlo anche così. Secondo me lo sport è una stagione vincente, poi è chiaro che insomma è una squadra che costa molto meno della Juventus, è una squadra che non era accreditata, è una squadra che sta facendo i miracoli, poi magari i miracoli si fanno una volta sola. Molto merito di Simeone, non tutto merito di Simeone, perché sono anche ottimi giocatori. Vediamo come finisce questa storia. Quanto a Conte, io trovo, ma l'ho detto molte volte, che il suo dubbio, il suo interrogativo sia pienamente legittimo. Allora, oggi, adesso voglio andare su un altro argomento, poi andiamo dove volete, 800240024, perché c'è stata una notizia scioccante, a dire la verità. L'attuale presidente della Lega Italiana Pallacanestro, cioè Minucci, che è stato il Deus Ex Machina della Siena, che ha vinto qualunque cosa, ebbene Ferdinando Minucci questa mattina è stato arrestato con accuse estremamente pesanti relative alla sua esperienza senese, con accuse che parlano di associazione a delinquere finalizzata all'evasione e alla frode fiscale per una trentina di milioni. Trovo che questa notizia per lo sport italiano sia l'unica parola che mi viene in mente, è scioccante. Luca Chiabotti, inviato dalla Gazzetta dello Sport. Ciao Luca. Ciao a tutti. Beh, scattano le manette ai polsi del presidente della Lega Italiana Pallacanestro. Scioccante mi sembra la parola giusta. Sì, anche perché sai, quando succedono queste cose, tutte le chiacchiere che si sono fatte in anni, magari così sì, diventa tutto molto più brutale, no? molto più crudo, molto più pesante per la pallacanestro italiana, molto più pesante per tutti quelli che l'hanno seguita e che evidentemente hanno fatto dell'omesso controllo una delle loro bandiere, e ci mettiamo dentro tutti, anche se proprio lì a Radio 24 due anni fa avevamo fatto una trasmissione dedicata al modo un po' allegro nel quale viene gestito lo sport in Italia. Abbiamo tentato di fare del giornalismo e lo stesso Mino ci si arrabbiò molto per quella in quell'occasione. Ovviamente, però sì, è scioccante e è molto, molto pesante per la pallacanestro italiana, che deve soltanto tirar fuori la frustona. Allora, su Siena, che fosse in difficoltà, allora lo sappiamo tutti, anche oggi ho letto un'intervista a Marco Crespi, sappiamo, forse siamo sull'orlo della sparizione, e questo è pazzesco per una squadra che gioca con lo scudetto sul petto, che è stata neanche la regina, è stata la dominatrice assoluta, l'imperatrice mondiale totale nel nostro campionato, nel nostro orto, per un sacco di anni. Insomma, da quello alla sparizione, alle manette, al fallimento, alla bancarotta, passa un bel po', no? La situazione lì com'è? Allora, la situazione è che ovviamente la società è stata fallita, dichiarata il fallimento. Questo comporta la revoca del diritto sportivo alla fine della stagione. Sì. Quindi in questo momento, se non subentrano dei fatti nuovi, Siena è morta. Ed è orribile pensarlo, perché questa, come dicevi tu, è una squadra non solo che ha vinto, ma è una squadra che continua a vincere fra le difficoltà e che ha scritto veramente delle pagine importanti. E quindi sparir così, quando poi si legge che chi l'ha amministrata ha anche usato dei fondi neri non solo per pagare i giocatori e quindi per renderla più forte, ma anche per se stesso, insomma, l'amaro in bocca, considerando che adesso c'è un buco di 5 milioni che è comparso un po' dal nulla anche lì per omessi controlli negli anni. Ecco, chiaro che uno dice: accidenti, con un briciolo più di accuratezza, con un briciolo più di lealtà, magari avrebbe vinto due scudetti in meno, ma oggi sarebbe viva e vegeta e lotterebbe come unica forse vera alternativa a Milano. Però tu sai, noi abbiamo detto molte volte, inutile nascondersi su questo punto, abbiamo detto molte volte, Ferdinando Minucci è stato un grande dirigente sportivo, certamente, poi adesso valutiamo tutte queste cose nel capire poi la reale dimensione, ma molti di noi, tutti noi abbiamo detto, insomma, è lui che tiene in mano le redini della pallacanestro italiana, dal cocchio di Siena. No? Certamente, ed è evidente che è stato così per tanti anni. Anche se, ribadisco, allora, anche qua i reati che si configurano sono gravi, però nel senso che l'evasione fiscale, purtroppo tante volte tante società sono state multate e la cosa è passata più o meno sotto silenzio per un'elusione più che evasione fiscale. Quindi è una cosa che purtroppo noi facciamo un po' come quando succede qualcosa con i tifosi, no? Lo si sanno tutti, però lo fanno tutti. Questo ovviamente è un po' più grave. A me i pensieri che vengono in testa, al di là di questo, che parliamo di cifre grandi per la pallacanestro, piccole per quello che ci si nel mondo dell'economia dello sport, del calcio, roba del genere, a me più che questo il pensiero che si accende sempre nella testa è: ma questo cosa ha comportato a livello sportivo? Certo. E soprattutto, appunto, perché quando ci sono stati alcuni momenti critici lo sport non ha voluto o non ha potuto, loro dicono, noi diciamo non ha voluto fare delle inchieste un po' più serie e vedere esattamente cosa c'era dietro? Ecco, questo è quello che credo faccia star male un po' tutti i tifosi. Fino a oggi i problemi legati ai bilanci e anche a delle cose che non andavano fatte nei bilanci delle società non avevano nessun rapporto con lo sport, con i risultati, e quindi tutte queste storie, revoche di scudetti, roba del genere, anche se ipoteticamente se uno dopa un bilancio è come dopare un giocatore. Sicuro. Però oggi ci troviamo di fronte a una cosa profondamente diversa, a un'accusa molto di un utilizzo di una società sportiva che sta fallendo e che sta lasciando una città come Siena senza la pallacanestro di vertice dopo 7 scudetti. Stiamo chiedendoci se questa cosa di organizzazione a delinquere finalizzata a non debba provocare qualcosa di più grave anche a livello sportivo. Cioè, certo, tu dici che la giustizia sportiva a questo punto potrebbe avere le carte per intervenire. Nessuno dà delle risposte. Ed avviare un processo di revisionismo, allora, che potrebbe essere paragonabile ai 7 tour di Armstrong, allora, voglio dire, perché si tratta di un'intera epoca. Allora, secondo me il revisionismo, anche quello lascia un po' il tempo che trova. Arrivati a questo punto, nessuno vuol togliere a Siena i meriti di quello che ha fatto. Però sì, certamente bisogna comunque porsi il problema che queste cose alterano anche quello che succede in campo e che quindi è così. La giustizia, cosiddetta giustizia sportiva, lo sport non può aspettare, come ha fatto fino a oggi, di che la magistratura per motivi suoi o la guardia di finanza per motivi appunto loro facciano delle inchieste che poi sradicano, come in questo caso, o addirittura presidente della Lega eletto, una società come Siena. Ma infatti questo mette sotto accusa non solo Minucci, un intero sistema che, non, ma l'abbiamo detto prima, no? che diceva le cose di cui sopra e che però non ha fatto nulla o non è riuscito, non aveva la forza, non aveva il coraggio per far saltare prima questo sistema, mette sotto accusa non diretta ma nemmeno velata molti di quelli che hanno gestito la pallacanestro italiana. Certo, basta leggere gli ultimi atti della Lega o di queste cose per capire come appunto questa situazione stava benissimo a tutti, pur sapendo che c'erano comunque dei rischi d'immagine, no? Chiamiamoli così. E quindi sì, credo che da questa storia debba uscire un profondo cambiamento, oltre che più che andare ad accusare Minucci, certo, ripeto, di cose che purtroppo nel giorno oggi succedono molto più gravi in tante altre parti, non solo dello sport, sì, anzi, però lo sport è diverso, ci illudiamo ancora forse. Sì, però non deve essere mai una giustificazione, Luca, questo esatto, lo sappiamo benissimo. Lo sport è diverso, lo sport ha bisogno di qualcosa alla base in cui bisogna credere un po' di più, perché sennò diventa tutto più brutto, ecco, e quindi spero che almeno questo accada. Grazie Luca. Grazie a voi. Grazie Luca Chiabotti. Alla prossima. 800 24 00 24. Ci fermiamo per la borsa e poi torniamo insieme. Se avete domande, se no me ne vado a far culo. Ciao, grazie, buona. Tutti convocati. Sulla qualità musicale dei Detective Pigeons potrei avere da dire, insomma, diciamo che vorrei rivalutarli, vorrei risentirli per avere un giudizio più preciso. Con questo gruppo, Detective Pigeons, suonava naturalmente Cellino, il nuovo proprietario dell'Iz, è andato lì, ha fatto il suo primo show e avete sentito qual è stata l'accoglienza. Cellino, Cellino. Vediamo come va questa storia e vediamo quali saranno le nuove esperienze musicali dell'ex presidente del Cagliari. Intanto c'è una notizia molto interessante che riguarda la rumba prevista degli allenatori, perché una delle panchine che ci dovevano liberare ed una delle più ambite era quella del proprio dei neocampioni di Francia, cioè di quelli che tra i fischi ieri sera hanno vinto, hanno festeggiato tra i fischi a Parigi il titolo di campione di Francia. Ebbene, Blanca, eccola qua, che è sta? Ah, sui Detective Fusion un'altra volta, fammi sentire. Vi piace? Sì, dall'altra parte del vetro ci vanno a senso Piantani, da Scaltriti, anche lo scrittore dicono sì, non male, vabbè. No, ma chiaro che insomma, i Pearl Jam sono un'altra roba, ragazzi, dai, facciamo i bravi, va bene che suona Cellino, ma se parliamo di qualità musicale facciamo la sufficienza, non di più. Francesco, cosa dice? Le piacciono? Buonasera Carlo. Ciao. Ti piacciono? Chiamo come... No, niente. Chiamo per quanto riguarda la pallacanestro. Sì. Perché sono tifoso come te, una notizia scioccante. Volevo soltanto fare una riflessione, allora insieme a Luca Chiabotti, che penso che tu non abbia più, però così. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che un accertamento con adesione che Armani ha pagato di 250 milioni d'euro non avrebbe falsato niente quest'anno. Scusa, un accertamento? Un accertamento tributario avuto dal gruppo Armani, sì, che ha aderito e ha pagato 250 milioni di euro, accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che non è sicuramente equiparabile all'evasione fiscale, che è reato. Capisco cosa vuol dire lui quando dice che bisogna per forza ricollegare la revoca del titolo sportivo o quantomeno di quello che è lo scudetto che ha preso e che ha vinto sul campo. Cioè, si va fuori tema. Un po' come è successo con Calciopoli, credo, no? No, non è il caso di confondere un sacco di cose, Francesco. Allora, questa di Siena era una voce ricorrente, erano già uscite diverse notizie, diverse informazioni, è stata una gestione presumibilmente fraudolenta del club che ha vinto tutto negli ultimi anni. Secondo me è un po' fuorviante dire, vabbè, allora andiamo a vedere cosa fanno gli altri, guarda questo, quello e quell'altro, sappiamo bene quale sia la storia, perché lo sappiamo tutti, è un altro segreto di Pulcinella del nostro basket, la storia dei diritti d'immagine, no? La conosce? Sì. Sa la storia dei diritti d'immagine, per cui, ok, prendo un giocatore, gli pago una parte dello stipendio in chiaro, con la cifra scritta sul contratto depositato in Lega, e un'altra parte dello stipendio come diritto di immagine, con un trattamento fiscale diverso e così via. Questo giochino l'hanno fatto in molti. Non mi risulta che l'abbia mai fatto Armani, l'abbia mai fatto il gruppo Armani, questo non mi risulta. No, ma il discorso che faceva Chiabotti era diverso. Sì. Cioè, lui diceva, da quello che ho capito, che vorrebbe dire allora che se ho fatto una gestione fraudolenta, allora mi sono potuto permettere giocatori come Don Rucke o altri, questo e di quindi fatto... ho vinto sul campo in modo che non era reale. Non è così. Scusi, ma non è così. Un attimo solo. Sì. E questo penso è quello che voleva dire Chiabotti, o no? Chiabotti giustamente ha detto il doping fiscale è una forma di doping, se prendi il doping alteri le prestazioni sportive, in questo caso il doping fiscale ha alterato le potenzialità di Siena, che ha vinto 7 titoli italiani. Sì, ma se questo si è preso soldi e si è messo in tasca per sé, non penso che abbia reinvestito nella società per comprare un giocatore più forte di un altro. Io Siena l'ho vista giocare contro Milano quando Milano aveva l'Ettore Scariolo. E credo che potesse avere chiunque in panchina, era più forte in campo e sul campo ha vinto, certo, e mi sembrerebbe veramente un'ingiustizia che gli venissero revocati quello che ha vinto sul campo. No, ma sono sempre molto perplesso sul revisionismo, ma l'ho detto anche prima, no? sono perplesso sul cioè ci dovessero dire adesso gli ultimi sette campionati non contano più, come si è fatto col Tour de France per Lance Armstrong, però è innegabile il fatto che il doping fiscale altera i risultati sportivi, cioè il doping di bilancio altera i risultati sportivi. E allora poi bisognerà vedere se questo era l'unico caso in Italia, bisognerà vedere chi ha imbrogliato in altri modi o ad altri livelli. È chiaro però, è innegabile, ma questo lo dico in linea di principio, che se alteri il bilancio alteri il risultato sportivo. Poi detto questo, io voglio conservare il ricordo di una squadra meravigliosa come è stata Siena per molti anni, dominatrice assoluta, splendida, spietata, invincibile, inarrivabile. Se però gli accertamenti e i procedimenti diranno che quella squadra era stata costruita utilizzando forme di doping fiscale, bisognerà come minimo prenderne atto. Questo credo sia pacifico. Grazie Francesco. Mario Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno gente, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Allora, sì, io concordo proprio con quanto sta dicendo in questo momento. È giusto che se una squadra dopa il proprio bilancio, la propria situazione economica, tanto più sportivamente debba poi questo avere una ripercussione, perché insomma in fin di conti lo sport dovrebbe avere dei requisiti morali che vanno oltre, sì. Poi tanto più sì, tra virgolette, sì. L'onestà del bilancio, dei principi economici e quant'altro. Però, sì. Però detto questo, mettiamocela via, cioè ci sono dei precedenti storici illustri. La storia dimostra che di fatto alla fine il giocattolo non si vuole romperlo. Ricordiamoci le false fideiussioni. I falsi passaporti, i falsi in bilancio, sì, abbiamo la storia sportiva piena di queste porcate, lo sappiamo benissimo, possiamo tirarne fuori un sacco di queste porcherie. Il giocattolo non si vuole rompere, non si vuole scassare il giocattolo, però rischia di scassarsi da solo, no? Di fronte a queste situazioni, e queste situazioni sono arrivate allo scoperto a questo punto. Poi tutti conosciamo la storia, allora mi direte i passaporti di Regoba, i Rolex di quell'altro, lasciando stare Calciopoli, mettendolo per un attimo lì, quindi che cosa bisognerebbe fare? Chiudere la bottega? Mario? Sì. No, dica. Pronto? Dica. Mi sente? Sì, la sento. Quindi cosa bisognerebbe fare? Chiudere tutto? Allora, io credo che lo sport sicuramente debba avere dei principi che vengono prima dei principi economici e quant'altro. Se quando si chiama un arbitro per mettersi d'accordo su quale debba essere il designatore, sì, questo è pacifico, Mario, facciamo però saltare tanto più se uno falsifica i bilanci, sì, o infrange il codice penale, per sì, me bisogna intervenire anche a livello sportivo, o no? Bisogna intervenire anche a livello sportivo, certamente sì, poi bisogna valutare in quale misura, in quale maniera. Lei però non starei a dire ok, lo sport deve essere un mondo di santi e puri, perché così non è, ma semplicemente perché è un business, perché girano un sacco di soldi, perché sono delle aziende di piccole, medio, grandi dimensioni, perché spostano molti quattrini, molti interessi, per tutte queste ragioni. Quindi non è che dobbiamo dire, fare le verginelle, dire oddio, nello sport succedono delle porcherie. Certamente succedono delle porcherie, certamente bisogna provvedere, bisogna valutare quali possano essere le sanzioni. Nel caso specifico di Siena io non lo so, secondo me bisogna aspettare un po' da questo punto di vista per capire tutto, però è chiaro come un processo di revisionismo totale delle ultime sette stagioni della pallacanestro italiana sarebbe qualcosa di sconvolgente. Detto questo, ha ragione Chiabotti, il doping di bilancio è una forma di doping e quindi altera il risultato sportivo. Penso che su questo di discussioni ce ne possano essere poche al di là del tifo, Convocati. Allora, io saluto e ringrazio il mio caro amico Enzo Bucchioni, direttore di QS. Ciao Enzo. ciao, ciao, ben ritrovati a tutti, buon pomeriggio. Grazie. Ciao. No, sembra che qui sia, vista la cronaca di oggi, potremmo essere alle prese con nuovi processi di revisione sportivi, non nel calcio ma nella pallacanestro in questo caso. Il revisionismo è sempre una brutta bestia, sì. Maneggiare con cura. Ma guarda, io non sono affatto stupito né meravigliato, ho sentito l'intervento dell'ascoltatore di prima, ma lo sport fa parte della società. Sì. Oggi ci sono stati altri arresti in numerosi altri settori della vita civile e politica, quindi voglio dire, non è che possa pensare siamo sulla luna, su un altro pianeta, certo. Lo sport è fatto da uomini, quindi ripeto, nessuna meraviglia. No, poi girano un sacco di soldi, girano appunto, un sacco di quattrini. Fatto da uomini in un posto dove girano un sacco di soldi, quindi le tentazioni sono decuplicate. Qual è il problema? Il problema è far rispettare le regole e le leggi che ci sono. È soltanto questo il discorso, perché quei signori che erano dentro lo stadio sabato, se vogliamo ricollegarci anche a quello, e non ci dovevano essere. Certo. Qualcuno li ha fatti entrare, qualcuno ha falsificato il nome sul biglietto, qualche steward, siccome è amico dell'amico, sapeva benissimo, ha chiuso gli occhi. Sì. E dove dobbiamo intervenire? Ma sai, Enzo, cosa fa più arrabbiare? Che poi ci sono, scopri o sai che ci sono un sacco di persone al corrente di queste cose, no? Va nel caso di Siena, va nel caso che tu citi dell'ingresso in quello stadio. Poi ci sono un sacco di persone che sono al corrente di situazioni di questo tipo. Sicuramente, ma certamente, ma cominciare dai dirigenti, ecco, anche lì bisognerebbe andare a incidere molto di più, deve essere anche la Lega a dare disposizioni più ferre, più ferme, ma guardandosi tutti negli occhi, perché molto spesso sono le società a dare biglietti, a consentire anche nelle tribune di onore, ti sottolineo, anche nelle tribune di onore, la partecipazione di certi personaggi, plurindagati, plurinquisiti, alcuni che non dovrebbero neanche entrare negli stadi. Ritorniamo lì, mi dicono che molto spesso i biglietti omaggio destinati ai giocatori vanno alla fine poi in mani strane, cioè è tutta una catena che va spezzata e l'aspetti soltanto con le regole ferre, con l'intervento deciso, con le celle negli stadi per quanto riguarda i tifosi, tutta una serie di cose che in Italia decidono, fanno, mettono su carta e poi dopo un mese se le dimenticano tutti e fanno finta che non ci siano. Sì. Questo secondo te vedremo mai cose di questo tipo? Ma io me lo auguro sempre, perché sì, me lo auguro, dobbiamo sempre pensare positivo, speriamo che un giorno questo nostro straordinario paese bellissimo, dove viviamo forse come nessun altro al mondo per le bellezze, tutto quello che sappiamo, cibo, diventi anche sotto l'aspetto morale un pochino più internazionale, un pochino più europeo, un pochino più vivibile. Ecco, questo è un auspicio, è una lotta che dobbiamo fare, anche noi dobbiamo, ci metto dentro anche noi, i media, dobbiamo combattere un po' di più, lottare un po' di più, con maggior tenacia, sottolineare le cose che non funzionano continuamente. Questa è anche la nostra missione, che un po' spesso però è dimenticata. Poi però vedi che tutto viene distorto in maniera pazzesca, no? Come la storia quest'anno, il tormentone dell'anno, del campionato, per fortuna è finito, qual è stato? E quella curva chiusa e discriminazione territoriale. E come facciamo con la condizionale, mica con la condizionale, quanto stadio chiudiamo, metà, un quarto, un terzo? Vedi che tutto diventa terribilmente distorto ed è per questo che io tengo il mio pessimismo su tutti questi punti. Sì, tu hai ragione, però anche lì, ecco, parliamo delle curve chiuse, no? Colpisci tutti per non colpire uno, è una regola bizzarra. Ecco, ci sono le telecamere negli stadi, ci sono delle leggi che le impongono. Allora facciamo le zoomate, perché io ho dei ragazzi che vanno nelle curve e mi dicono che alcuni non sono d'accordo, anche sabato quando qualche curva ha cantato, alcuni non sono d'accordo e quindi non cantano. Allora sono 1000 numero, cantano in 100 e questi 100 li vedi, li zoomi con le telecamere, li vai a prendere, li denunci, se fanno oltre l'impatto e ti gli dici, amico, allo stadio ci torni fra 10 anni. Certo, ecco, ma questo è indubbio. Perché non si fa questo? È più facile colpirli tutti, no? È troppo semplice. Stiamo parlando, tu sai benissimo che stiamo parlando anche in questo caso di quattrini, perché fare l'ultra è un mestiere e dunque questo è uno strumento di pressione sulle società, questo è uno strumento di potere, venire controllo, ci sono in ogni curva N persone, 4, 5, 6, 10, 15, delle quali peraltro si conoscono anche i nomi, no? Certo, si conoscono anche le fotografie, anche... fotografie, il curriculum, la fedina penale, la provenienza, l'organizzazione alla quale magari sono affiliati, e dove il loro ambiente nella normalità. insomma tutti questi si conoscono, no? Chi ha in mano le curve, insomma, li conosciamo, quindi poi andiamo lì a sorprenderci. Il discorso è che dobbiamo renderci conto che anche questa è una questione esclusivamente di denaro, e dunque c'è gente che fa gli affari, che lo fa di mestiere, e campi in questo modo, e ben vengano gli strumenti di pressione ulteriori che possono avere. Un'ultima cosa, Enzo, perché io ho aperto questo programma con un argomento prettamente calcistico, e lì vorrei chiudere con te, visto che ti ringrazio. Ecco, bravo. Sei molto buono. Come buono lei, come diceva Fantozzi, come umano lei. No, sì. La questione è Rossi. Tu lo conosci bene, molto da vicino? Sì. Mondiale o non mondiale? Se vai mondiale. No, se va. Se no, a tuo parere sarebbe il caso. Guarda, io non ti posso dire cose che non so. Ti dico la mia sensazione. Sì. Ieri, fra l'altro, casualmente ho incontrato il CT su un treno, quindi... E non mi ha detto nulla, perché non può dirmi nulla neanche lui. Se devo giudicare, a volte noi dobbiamo avere anche delle sensazioni, certo, no, noi giornalisti, se devo giudicare dalla mimica facciale alla mia domanda, che, alla quale non ho avuto risposta perché Prandelli è una persona seria e non mi risponde, devo dire che Rossi non andrà ai mondiali. No. Dalla mia sensazione, dalla mimica facciale, ti ripeto, perché il CT è stata una tomba. Anzi, posso pensare che sarà convocato nei 30, ecco, questo mi pare di averlo capito. Però le possibilità che vada ai mondiali sono poche, perché è vero che è guarito, ma è pur sempre un giocatore ad alto rischio. E quando vai in una manifestazione come questa hai bisogno di gente che sia pronta ogni tre giorni, che non abbia delle criticità che poi vengono ben conosciute dagli avversari, e non voglio dire lo facciano apposta, ma magari uno dice c'è Rossi, invece di entrargli sulla caviglia gli entro sul ginocchio. Certo. Quindi voglio dire, anche qui fa parte del gioco, perverso, ma fa parte del gioco. Quindi chi rischia su 23 giocatori, ne devi avere 23 sanissimi. È un rischio come questo, magari porti uno che ha qualcosa di muscolare che pensi che possa recuperare, magari la prima partita no, però la seconda sì, ma una situazione come questa è un pochino complicata. Certo, Rossi, per l'affetto che io ho per questo giocatore, un ragazzo straordinario, poi noi siamo sempre a parlare di bad boys. No, ma è chiaro. Questo tutti... è un ragazzo straordinario, io gli farei giocare 20 mondiali come esempio per tutti quelli che si comportano male. Certamente. Mi auguro per lui, però la vedo in salita. In salita, e ci sono anche delle ragioni specifiche, tu le hai ricordate perfettamente. Enzo, grazie, ci sentiamo presto. Grazie a tutti, buon pomeriggio, a presto. Grazie Enzo Mucchioni. Miglior in campo di oggi? Chi è? Mamma mia, Luca, buongiorno. Ragazzacci, buongiorno. Dai. Buongiorno a tutti. Ragazzacci. Magic Moments, sempre con voi, Sì. Sempre. Anche quando sono in ufficio vi ascolto, anche se i miei colleghi d'ufficio starnazzano un po', perché si sentono un po' disturbati, ma tra l'altro... d'altro canto sono commercialisti, quindi sì. Noi ci teniamo molto a disturbare. Punto uno, parlavate prima del campionato spagnolo, ci credo molto poco che l'Atletico Madrid perda Barcellona, una partita decisiva con questo piccolo blaugrana. Punto secondo, i mondiali non usciranno dal Sud America, secondo me la Coppa del Mondo. Ragazzacci, buongiorno a tutti. Beh, Luca, allora noi ti mandiamo la maglietta di tutti i convocati, però tu mi prometti, so che non puoi rispondere, ma te lo dico personalmente, mi prometti che la metti in ufficio e i tuoi colleghi li disturbi ancora di più, e poi magari fai una bella foto, ce la mandi, la mettiamo su Twitter, su queste robe qui, la divulghiamo, costringi i tuoi colleghi ad ascoltare tutti i convocati ogni giorno, così magari una volta ne mandiamo una anche a loro. Ragazzacci, buongiorno a tutti. Franco Piantelli, autore di questo programma, Claudio Schettone in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Ragazzacci, ci sentiamo domani, tra l'altro comincia il Giro d'Italia, domani alle 2, tutti i convocati. Contro la mia serata di sabato, io sabato sono arrivato allo stadio, ero a casa di mia amica 5 minuti allo stadio, sono arrivato con un mio amico, sono entrato alle 9.01 allo stadio, la partita è sospesa, che facciamo? Vabbè, mi riappoggio un attimo a casa, sono arrivato, c'era la Grigia appena scolata e lì devo chiedervi perdono a tutti, ho tradito clamorosamente, volevo tornare. Mi è dispiaciuto non tornare, quando la partita è ricominciata mi è venuto anche il nervoso, ma la gricia è la gricia.